crolla via questa ruggine e fatti guardare. Torna a sorridere sui tavoli fiori che cambiano, notizie buone che arrivano, tu fatti ascoltare. Secolo, non farmi aspettare, sì, il paradiso è qui, comincio a credere che i grandi sognano di amarti e ridere, na na na na na na na na. Si aprirà sopra te questo azzurro, tu sul viso puoi.